davanti. Sì. Per me che ti amo, certo, ma io non devo bruciarmi con una come te, non devo bruciarmi con una come te, basta. Peccato, peccato che tu sai troppo bene. Pensi già di avermi ammaestrato, ma non sono malato come pensi, no. Ricordalo, ma io non devo bruciarmi con una come te, non devo.